per eliminare l'arabo dai segnali stradali di Gerusalemme va di pari passo con i tentativi del governo di sradicare l'identità palestinese della città. Nella maggior parte dei casi gli attivisti di destra hanno coperto il testo arabo con adesivi di campagne politiche appartenenti a partiti prevalentemente di destra e religiosi. In altri casi l'arabo viene semplicemente grattato via o coperto con vernice spray. Comunque la gamma di slogan e di adesivi usati per nascondere l'arabo dimostra che il messaggio che queste azioni veicolano è secondario rispetto all'atto stesso della cancellazione della scritta in arabo. Comunque nell'articolo ci sono diverse foto di esempio, sono molto interessanti. Per questa settimana è tutto, vi saluto. La yuridunani bainahum ya أنا يوسف يا أبي. Iniziamo la rassegna stampa di oggi con un articolo di Umberto De Giovanni Angeli del 6 settembre 2020. Palestina, storie di ordinaria violenza, quando l'oppressione diventa racket. Due grandi giornalisti israeliani, Gideon Levi e Alex Leval, su Haaretz, il quotidiano progressista israeliano, hanno raccontato una storia che più di mille analisi dà contentezza di ciò che significa oppressione, arbitrio e violenza in terra di Israele. Cinque ufficiali della polizia di frontiera, membri del corpo di polizia di occupazione, la più brutale delle unità che nei media israeliani sono solitamente chiamati combattenti, rimangono in custodia. Sono accusati in relazione a 14 incidenti, con accuse che includono rapina a mano armata, aggressione che ha causato danni fisici, cospirazione per commettere un crimine, aggressione aggravata, abuso di una persona in difesa, furto, violazione della fiducia e distruzione di prove. Le accuse descrivono in dettaglio una serie scioccante di casi in cui gli ufficiali sono accusati di aver umiliato, preso a calci, picchiato anche a sangue e derubato i lavoratori palestinesi che cercavano di arrivare al loro posto di lavoro in Israele. Lo hanno fatto giorno dopo giorno, a metà luglio, quando il checkpoint Meitar nella Cisgiordania meridionale, vicino Hebron, è stato chiuso a causa della pandemia di coronavirus e centinaia di palestinesi, alcuni con regolare permesso, stavano entrando in Israele attraverso le numerose brecce nella barriera di sicurezza che le forze di difesa israeliane non hanno chiuso affinché gli operai riescano ad attraversarla di nascosto. Asia News del 25 settembre 2020. Dopo 15 anni, Fatah e Hamas si accordano per le elezioni palestinesi. L'accordo è stato siglato dal leader di Fatah, che governa la Cisgiordania, Mahmoud Abbas, e dal capo politico di Hamas, che controlla la striscia di Gaza, Ismail Haniyeh, dopo giorni di colloqui e trattative in Turchia, finalizzati ad appianare le profonde differenze fra le parti con la mediazione del governo di Ankara. Questa intesa rappresenta una svolta nella scena politica locale, a fronte di un voto atteso da quasi 15 anni e più volte rimandato in passato. Vorrei ricordare che le ultime elezioni si tennero nel 2006, quando il movimento palestinese vinse a sorpresa e conquistò il controllo di Gaza. Il governo di unità nazionale con Fatah fu di breve durata. La separazione fra i due fronti innescò violenti scontri che portarono l'anno successivo al voto all'espulsione dei rappresentanti di Fatah dalla striscia di Gaza. Assieme alle elezioni presidenziali e parlamentari, che si terranno entro i prossimi 6 mesi, verranno rinnovate anche le più alte cariche locali e dell'autorità. Fra queste il Consiglio legislativo palestinese, la presidenza stessa dell'autorità palestinese e infine il Consiglio nazionale palestinese. Pubblicato da Invicta Palestina del 18 settembre. La vita sotto assedio. Il blocco a Gaza compie 14 anni ed è illegale come sempre. Miral, 10 anni. Ha ottenuto il permesso di recarsi a Nablus, in Cisgiordania, per la chemioterapia, ma ai suoi genitori è stato negato. Miral è morto da solo. Aisha, una bambina di 5 anni, aveva un tumore al cervello. A causa delle restrizioni di Israele, i suoi genitori non potevano nemmeno fare domanda per accompagnare la Gerusalemme per le cure necessarie. Ci sarebbero volute 3 settimane perché Israele facesse un controllo sulla nonna di Aisha. E così è andata con uno sconosciuto. È morta da sola. Da Magazine di Sarit Michaeli del 4 settembre 2020. Disumanizzazione. I residenti di Kurf Kadum, che dal 2011 protestano settimanalmente contro la chiusura dell'ingresso principale del loro villaggio, hanno pubblicato foto di ordigni esplosivi, gli Improvised Explosive Device, fatti di granate stordenti che le forze israeliane avevano posizionato il giorno prima della protesta, nei punti in cui si sarebbero radunati i manifestanti. Erano stati posizionati e camuffati in modo tale che qualsiasi contatto li avrebbe fatti esplodere. E ora vorrei darvi una notizia e dedicare un ampio spazio a questa, perché riguarda la deliberata politica di annientamento della cultura di un popolo da parte di Israele. L'articolo è di Irit Segoli, attivista del gruppo antioccupazione israeliano di Mash Som Watch del 7 settembre 2020. Gli accaparramenti israeliani di terre impediscono ai palestinesi di accedere ai santuari musulmani in Cisgiordania. Alcuni cadono in rovina e vengono deliberatamente distrutti. L'accaparramento da parte di Israele delle catene montuose e delle colline di tutta la Cisgiordania occupata non ha risparmiato luoghi di culto sacri per i musulmani palestinesi. Secondo un nuovo rapporto, i makam, tombe o santuari costruiti su un sito legato a un santo musulmano o a una figura religiosa, i makam, dicevo, in tutta la Cisgiordania, sono stati annessi informalmente agli insediamenti israeliani attraverso con ordini militari, l'espansione di zone a fuoco aperto della forza di difesa israeliana, intrappolandoli così in riserve naturali e siti di antichità. Dall'inizio dell'occupazione della Cisgiordania, avvenuta nel 1967, Israele, secondo Mash Som Watch, ha fatto una chiara distinzione tra i luoghi sacri che onorano le figure bibliche ebraiche, che ricevono il riconoscimento ufficiale dalle autorità israeliane e sono mantenute regolarmente, e i makam, che sono sacri solo per i musulmani e quindi non sono riconosciuti da Israele, e quelli resi inaccessibili sono stati abbandonati dallo Stato, mettendo così a repentaglio la loro esistenza. Ebbene, impedire ai palestinesi di visitare questi makam è una violazione di diritto internazionale che garantisce alle popolazioni occupate il diritto di pregare nei luoghi sacri. Lo studio di Mash Som Watch ha trovato ben 40 siti di questo tipo. Ne farò alcuni esempi. Sitt Zara Makam, il santo patrono della maternità, costruito 400 anni fa, si trova nella riserva naturale di Khoshav al-Shakkar, vietata ai palestinesi, proprio di fronte all'omonimo insediamento appena a nord-est di Ramallah. Oggi Makam è quasi completamente distrutto. Poi abbiamo Salman al-Farsi Makam. Nel cuore di Itzhar, uno degli insediamenti radicali del nord della Cisgiordania, si trovano una moschea e un makam in onore di Salman al-Farsi, dal nome dell'amico e barbiere personale del profeta Maometto. Il makam oggi è crepato e fatiscente e necessita di restauro e cura. Ai palestinesi è vietato pregare nel sito. La terra su cui sorge il makam è stata espropriata per ordine militare nel 1983. Ai proprietari terrieri non è stata data l'opportunità di fare appello o opporsi. Altro sito, Sheikh Bilal ibn Saraba Makam, che si trova vicino Elon Moré. L'insediamento di Elon Moré nel 1983 deteneva ben 6.400 acri di terreno agricolo palestinese, che sarebbe diventato la riserva del Monte Kabir. L'ingresso alla riserva è solo attraverso il cancello dell'insediamento e gli agricoltori di Elon Moré sono liberi di arare e piantare lì sulla terra palestinese. Sulla cresta orientale del Monte Kabir si trova il makam Bilal ibn Rabah, dal nome del primo muezzin dell'Islam e caro amico del profeta Maometto. Oggi, sotto la gestione dell'Ente per la Natura e i Parchi, l'edificio è desolato, coperto di crepe e di terra. Non vi è alcuna indicazione che segnali il significato religioso dell'edificio. Ecco, questi tre esempi mostrano come le acquisizioni di terre da parte di Israele avvengono attraverso la distruzione del patrimonio e dei siti religiosi palestinesi. Queste acquisizioni impediscono ai palestinesi di accedere a questi siti mentre giudicano l'area attraverso l'istituzione di luoghi commemorativi per gli ebrei che hanno sostenuto e assunto un ruolo attivo nell'occupazione. E che dire poi dei siti sacri sia per gli ebrei che per i musulmani, come Nabi Sabuil, il villaggio di circa 220 abitanti in Cisgiordania, nell'area C, situato a 4 km a nord di Gerusalemme, dove si trova la tomba di Samuele il profeta, o al-Ram al-Ibrahim, grotta dei patriarchi, a Hebron, la tomba di Rachele, matriarca del popolo ebraico che si trova all'interno di un cimitero musulmano in un enclave alla periferia di Betlemme, a 460 metri circa a sud del confine comunale di Gerusalemme. Riconosciuto dal 1990 come sito UNESCO insieme alla moschea di Bilal bin Rabah, un piccolo edificio religioso che si trova nella Giudea biblica, venerato storicamente da ebrei e successivamente da cristiani musulmani. Con la presa della Cisgiordania da parte di Israele nel 1967, la tomba è diventata un luogo di esclusiva preghiera ebraica. Sto parlando di Nabi Yusuf, tomba di Giuseppe. Ai musulmani è stato proibito l'accesso. Da allora in poi, frizioni e conflitti fra le due componenti religiose sono diventate frequenti. Anche dopo la firma degli accordi di Oslo, 93-95, la tomba è rimasta sotto il controllo dell'esercito israeliano. Nel 2000 il sito è stato consegnato all'autorità nazionale palestinese. Poco tempo dopo è rimasto seriamente danneggiato durante una sommossa. E nel 2002, infine, in seguito alla rioccupazione israeliana della città di Nablus, con l'operazione Scudo Difensivo, si è avuto il ritorno della frequentazione di gruppi di ebrei al monumento. E adesso un piccolo stacco musicale. corone. Riprendiamo la rassegna stampa da un articolo di Bocche Scucite dell'8 ottobre 2020. Un prigioniero palestinese è in sciopero della fame da 75 giorni per protestare contro la sua detenzione amministrativa, che è, ricordo, una reclusione senza accuse o processo da parte di Israele. Maher al-Akhras, 49 anni, ha detto questa settimana che non interromperà lo sciopero della fame. In un videomessaggio dal suo letto d'ospedale ha detto che l'obiettivo del suo sciopero di protesta è o la libertà per la mia famiglia e i miei figli o la mia uccisione in nome della loro falsa giustizia. Akhras ha chiesto ai suoi parenti e amici di non consentire un'autopsia in caso di sua morte. Non permettete a nessuno, ha detto, di toccare il mio corpo e di lacerarlo. La moglie di Akhras ha iniziato uno sciopero della fame questa settimana. Da Nena News del 9 ottobre 2020. In Palestina 3 mesi di lavori utili valgono una vita. Sparò da una torretta nei pressi di un posto di blocco dell'esercito israeliano a sud del villaggio di Al-Qader, non lontano dall'insediamento coloniale di Efrat, su un giovane palestinese, Hamad Manasra, che soccorreva una famiglia. Fu colpito al petto e alle braccia da 3 dei 6 proiettili sparati da un soldato. La vita di Hamad Manasra è terminata quel giorno, il 20 marzo del 2019. Col patteggiamento il soldato israeliano sconterà 3 mesi di servizi sociali. Del suo caso si parlò parecchio l'anno scorso ed è ritornato di attualità nei giorni scorsi perché il militare coinvolto, di cui non è nota l'identità, dopo essersi dichiarato addolorato per l'accaduto, ha patteggiato la pena con la procura militare. Sarà condannato per omicidio colposo causato da negligenza, ma riceverà una pena detentiva di appena 3 mesi, sospesa, che sconterà svolgendo lavori utili in una caserma. Da Infopal del 9 ottobre 2020. Bimbo di 1 anno ferito gravemente a un occhio da una gang di coloni. Mahmoud Iyad Banat, un bambino di 1 anno del campo di Al-Arub, a nord di Al-Khalil, Hebron, ha quasi perso un occhio a seguito dell'attacco di coloni che hanno lanciato pietre contro le auto dei cittadini palestinesi sulla strada principale che collega le province di Betlemme a Al-Khalil, Hebron, la strada 60. Testimoni hanno riferito che i coloni dell'insediamento di Daniel, che si trova in terre palestinesi, venerdì hanno lanciato pietre contro le auto di cittadini palestinesi. Il bambino è stato ferito a un occhio dopo che le pietre hanno rotto il vetro del finestrino laterale del veicolo in cui viaggiava lui e la sua famiglia. Sempre da Infopal del 7 ottobre 2020. In seguito all'azione legale di Adala, il centro legale per i diritti della minoranza araba in Israele, a Gerusalemme Est, Israele blocca le demolizioni a livello nazionale. Israele ha aumentato le demolizioni di case palestinesi nella città dopo che i tassi di diffusione del coronavirus sono diminuiti durante i mesi estivi. Secondo un rapporto dell'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari, l'OCHA, Israele ha demolito 31 edifici a Gerusalemme Est a luglio e agosto, lasciando circa 96 persone senza casa. Ad agosto e dall'inizio del 2020, Israele ha demolito 112 edifici palestinesi e 261 persone sono rimaste senza case, inclusi innumerevoli bambini. Altri 467 residenti palestinesi sono stati danneggiati a causa della parziale demolizione di strutture da parte delle autorità israeliane. Inoltre, durante l'estate, le autorità israeliane hanno emesso ampi avvertimenti di minacce di demolizione di case ai residenti beduini della regione del Negev e hanno avviato procedimenti legali per la demolizione di strutture costruite dai beduini. Da Infopal del 7 ottobre 2020. Israele approva costruzioni di 2.005 unità coloniali in Cisgiordania. Haaretz ha rivelato che domenica prossima il Consiglio Supremo israeliano per la pianificazione e la costruzione approverà la costruzione appunto di 2.500 unità abitative e coloniali nella Cisgiordania occupata, oltre ad approvare i piani per la costruzione di altre 2.000 unità abitative. Haaretz ha riferito martedì che alcuni dei piani di costruzione includeranno la legalizzazione di edifici già costruiti senza permessi e ostacoleranno la possibilità dell'espansione delle cittadine palestinesi. E per finire una notizia da Nena News del 6 ottobre 2020. Covid-19. Gaza senza kit e reagenti per i tamponi. Il Ministero della Salute non è in grado di eseguire il numero di test necessario per contenere la diffusione del contagio. Fermo da giorni uno dei soli due laboratori in grado di analizzare i tamponi. A 5 settimane dall'inizio del contagio tra la popolazione, dopo mesi con poche decine di casi positivi, tutti di rientro dall'estero, Gaza tenta con tutte le sue forze di contenere la pandemia ed evitare la catastrofe. Ricordiamo che Gaza è in condizioni da 13 anni sotto blocco israeliano. Le scuole, le moschee, le sale da matrimonio e altre strutture pubbliche rimangono chiuse, così come i ristoranti e molti negozi non essenziali. Ed è in vigore il coprifuoco notturno dalle 22 alle 8. La popolazione fa la sua parte ed è raro vedere qualcuno senza mascherina all'aperto. La paura è comunque diffusa, nonostante il bilancio totale dei decessi causati dal Covid-19 resti contenuto, siamo sui 22 casi, e i casi positivi registrati sino ad oggi siano solo 3.075 su una popolazione di oltre 2 milioni di abitanti. Gli abitanti si rendono conto che un contagio di massa a Gaza porterebbe al collasso il fragile sistema sanitario, reso più debole dalla carenza cronica di medicinali salvavita e di apparecchiature mediche. Sono solo poche decine di unità di terapia intensiva disponibili nella striscia e gli ospedali stentano ad adeguarsi ai protocolli stabiliti dall'OMS. Per mancanza di risorse di personale medico e paramedico specializzato. Il numero relativamente esiguo di positivi inganna, però. Occorrerebbe effettuare un numero di tamponi decisamente più alto per avere un quadro più aderente alla realtà del contagio ed aprire altri laboratori per esaminare i test. Gaza, però, non può permetterselo. E la scorsa settimana il Ministero della Salute ha annunciato che uno dei due laboratori attrezzati per il coronavirus non è più operativo. E adesso un piccolo stacco musicale. Thank you. Notizie dall'Italia. 10 ottobre. Il Festival Senza Confini è un articolo di Maria Di Pietro postato su assopacepalestina.org. Si è concluso domenica 4 ottobre a Roma, a Piazzale del Verano, il Palestine Festival, il primo festival dedicato alla Palestina. 4 giorni di concerti, proiezioni, dibattiti, arte e gastronomia palestinese. La cultura, l'arte, la musica, la storia di quel paese hanno trasformato l'evento in una vera e propria festa, i cui protagonisti sono stati gli incontri tra persone e popoli. Il festival è stato organizzato dalla comunità palestinese di Roma e del Lazio in collaborazione con tante associazioni, tra cui Assopace Palestina, AMPI, Associazione Cultura e Libertà, Giovani Palestinesi d'Italia, BDS Italia. Oltre alla cultura palestinese, il festival ha evidenziato i problemi connessi con l'occupazione militare che stanno subendo i palestinesi. Questo tema è stato affrontato con nome di spicco della politica e dello spettacolo. Uno Stato di diritto che si basa sull'occupazione non è scientificamente uno Stato di diritto, dichiara Giovanni Russo Spena, già senatore della Repubblica. Luisa Morgantini incalza dicendo che l'articolo 2, che sancisce accordi di cooperazione economica, sociale e politica, si debbano sospendere quando un paese viola i diritti umani. L'Unione Europea applica sanzioni e boicottaggio a tanti paesi, ma non a Israele. Stefano Fassina, deputato LeU, parla del suo impegno di parlamentare a costituire condizioni che portino il governo italiano per approvare una mozione in Parlamento, in modo che venga affermato il diritto dei palestinesi ad avere un loro Stato. Si spera che questo risultato si possa raggiungere anche grazie alla recente costituzione di un gruppo interparlamentare per la pace in Medio Oriente. Ospiti del festival hanno partecipato tra gli altri Moni Ovadia, che durante il suo spettacolo ha parlato di nazionalismo isterico, riferendosi al popolo israeliano. Suad Amiri, che sta girando l'Italia per la presentazione del suo libro Storia di un abito inglese e di una mucca ebrea, e lo stilista palestinese Jamal Tazlock, di fama internazionale, che ha presentato una sfilata di abiti che intrecciano colori e gusti orientali con quelli occidentali. Attacchi e polemiche agli organizzatori e alla presidente del Municipio 2 di Roma, Francesca Del Bello, non sono stati risparmiati. Sono arrivati dalla comunità ebraica di Roma, dall'ambasciata israeliana, che hanno chiesto di togliere il patrocinio del municipio. Perfino il centro Simon Wiesenthal da Los Angeles si è scomodato a scrivere al presidente Giuseppe Conte chiedendole di cancellare il festival. Tutto questo per bloccare la campagna del BDS, forma di lotta pacifica contro le sistematiche violazioni dei diritti umani compiute da Israele nei confronti dei palestinesi e della legittimità e della legalità internazionale. L'assessora Lucrezia Colmaier, esponente del PD, in contrasto con la presidente del municipio, ha rassegnato le proprie dimissioni. La presidente Del Bello, dichiarato: "Non capisco cosa ci sia di così preoccupante da ritirare una concessione istituzionale che noi diamo a tante manifestazioni", ha dichiarato. "Il nostro principio è che tutti debbano avere un'opportunità. Non si deve accettare il ricatto e la minaccia di ostilità e di censura. Non bisogna farlo mai. Facciamo nostre queste parole anche noi." Il festival si è svolto in modo pacifico ed è stato un successo. Alla dottoressa Francesca Del Bello esprimiamo gratitudine, ringraziamento e solidarietà. Troverete il link all'articolo di Maria Di Pietro sul blog di Buongiorno Palestina di questa trasmissione. Altra notizia, sempre di ottobre, 3 ottobre, Napoli. Il Consiglio Comunale ha commemorato Ali Horanei, proposta la cittadinanza napoletana per l'attivista palestinese vittima del Covid. Ali Horanei, figura storica della sinistra palestinese, esponente di primo piano della Resistenza, tra i fondatori dell'UDAP, Unione Democratica Arabo-Palestinese, organizzazione che raccoglie compagne e compagni della sinistra palestinese e araba in Italia, fu tra i principali ispiratori a Napoli del coordinamento Napoli-Palestina. Horanei ha dedicato l'intera sua vita alla lotta per il ritorno, la libertà, l'autodeterminazione, l'indipendenza e la creazione dello Stato palestinese. A tracciarne la figura, l'assessora Eleonora Di Maio, la responsabile della cultura, ha ricordato l'arrivo a Napoli nel 1980 di Horanei, profugo all'età di 8 anni. Palestinese e napoletano, ha rimarcato Di Maio, avrebbe avuto diritto a due cittadinanze, ma la sua domanda per la cittadinanza italiana è stata sempre respinta a causa delle sue battaglie radicali per il popolo palestinese. Per questo, ha proposto, si dovrebbe simbolicamente riconoscergli la cittadinanza napoletana, dopo 40 anni di permanenza in città. Passiamo ora ad un articolo del Jerusalem Post del 23 settembre, articolo firmato da Anna Aronheim, giornalista, la famosa giornalista militare del Jerusalem Post. Elicotteri Leonard e missili Spike nel nuovo accordo tra Italia e Israele. Israele e Italia hanno concluso un accordo di acquisto reciproco che vedrà il ministro della difesa israeliano acquistare 5 elicotteri da addestramento avanzato, Leonard AW-119, e gli italiani acquistare in cambio i missili Spike della Rafael e i simulatori di tiro della Elbit System. L'accordo è stato firmato martedì 22 dal direttore generale del Ministero della Difesa israeliano, il maggiore generale Amir Eshel, e il suo omologo italiano, il direttore nazionale degli armamenti Niccolò Falzaperna. Questo in una cerimonia di firma che si è svolta simultaneamente nelle sedi della difesa di ciascun paese, una a Tel Aviv e l'altra a Roma, e proiettata tramite videoconferenza. I primi 7 elicotteri sono stati acquistati un anno fa e altri 5 sono stati concordati oggi. Il nuovo velivolo sostituirà gradualmente gli elicotteri Seyfan, in servizio dagli anni 70. Il ministro della difesa Benny Gantz ha accolto con favore il completamento dell'accordo, affermando che esso riflette la nostra stretta e importante collaborazione con il Ministero della Difesa italiano nel corso degli anni. Passiamo ora a Repubblica del 20 settembre. Stati Uniti e Israele, con i ministri di Emirati Arabi e Bahrein, uniti dall'accordo di Abramo. In questo accordo Molinari vede la genuina volontà di collaborare da parte di Washington alla trasformazione dell'accordo di Abramo in una cornice in cui risolvere la questione palestinese. Questo sulla base degli accordi di Oslo del 18 settembre del 93, che prevedeva due stati e due popoli. Molinari fa parte della numerosa schiera dei giornalisti che volontariamente fingono di ignorare l'occupazione militare israeliana e le proteste del popolo palestinese. Già alcuni anni fa, alcuni analisti ritennero che Oslo non fosse stato un fallimento per Israele. In realtà, l'accordo ha offerto a Israele una formula per bloccare la nascita di uno Stato palestinese e rafforzare la sua occupazione. 15 settembre, da Open Online di Enrico Mentana e Professione Reporter. Bernardo Valli, definito da Repubblica il più grande reporter di guerra italiano della seconda metà del Novecento, lascia la Repubblica dopo 40 anni con una lettera secca al direttore Maurizio Molinari, dove, pur non mostrandolo chiaramente, da gentiluomo, è in aperta polemica con la direzione di Molinari perché troppo vicina a Israele. Dopo Enrico De Aglio, Gar Lerner e Pino Corrias, anche Bernardo Valli, storico inviato di guerra, ha lasciato la Repubblica. Secondo il periodico Professione Reporter, l'addio di Valli al quotidiano è nato da un attrito con il nuovo corso del giornale, con la proprietà della GEDI, gruppo editoriale, impresa italiana multimediale che appunto si occupa del settore della stampa, della comunicazione digitale, capeggiato da John Elkann con la direzione di Molinari. Valli, oggi novantenne, è stato un cronista sempre legato strettamente ai fatti, esperto di tutti i luoghi di crisi del mondo e di uno in particolare, che riguarda il Medio Oriente, dove oggi Molinari guarda con benevolenza al governo israeliano, mentre Valli ne ha descritto più volte, nei decenni, errori, debolezze, cadute e anche successi. Con questo chiudiamo la rassegna stampa italiana, e passiamo ora all'intervallo musicale. Sono Claudio per l'ultima parte della rassegna stampa, e cioè gli aspetti internazionali. Regno Unito. Quella che è la più prestigiosa rivista medica internazionale, l'inglese The Lancet, censura una lettera sulla situazione sanitaria a Gaza e ciò a seguito di pressioni filo-israeliane. La notizia è su Zeitun del 4 ottobre. La lettera era intitolata «La violenza strutturale nell'era di una nuova pandemia, il caso della striscia di Gaza». E questa lettera è stata pubblicata online il 27 marzo e ripresa sul sito di Amicizia Italo-Palestinese, in italiano. Ora, adesso, questa lettera è scomparsa dal sito di Lancet. Cioè, si ripete quello che si era già visto con il rapporto ESQVA delle Nazioni Unite, che è un rapporto che ha fatto scalpore, che è stato tradotto anche in italiano ed è disponibile tuttora su siti italiani. E questo rapporto è stato un'importante relazione sulla questione dell'apartheid israeliano. Cioè, succede che non appena una voce indipendente ed onesta si leva a dire le cose come stanno, i potenti amici, anzi i servi di Israele, provvedono a soffocarla. E la lettera aveva le sue buone ragioni sull'andamento della pandemia in Cisgiordania. Il bilancio della sola giornata del 9 ottobre è stato di 9 morti e di quasi 500 nuovi casi. Tutto ciò mentre gli attacchi dei coloni si intensificano nell'approssimarsi del rapporto delle olive, con centinaia di ulivi dati alle fiamme solo nel villaggio di Safa presso Ramallah. Questo denuncia l'agenzia palestinese Wafa. Assemblea generale dell'ONU di settembre. Sono state oltre 450 le organizzazioni di tutto il mondo che hanno inviato una lettera chiedendo all'ONU di aprire un'inchiesta sull'apartheid israeliana. Questo lo comunica BDS Italia. Con l'occasione ricordiamo che gli Stati Uniti forniscono quasi 4 miliardi di dollari del contribuente americano in aiuti militari a Israele, cioè per aiuti a mantenere il dominio sui palestinesi e proseguire il furto della loro terra. Corte penale internazionale. Si riuscirà a portare di fronte alla giustizia internazionale i criminali di guerra israeliani? È su Titan del 9 settembre. Questa eventualità, cioè di processare i criminali di guerra israeliani, spaventa Israele, che pare abbia stilato degli elenchi di responsabili israeliani che potrebbero essere arrestati se viaggiassero all'estero, e questo nel caso in cui la Corte Penale Internazionale decidesse di avviare per davvero l'indagine sui crimini di guerra in Palestina, cosa che la Corte si è già impegnata a fare ma che non ha iniziato a fare. Questo mette in evidenza il potere e le potenzialità della Corte, ed è proprio contro la Corte che gli Stati Uniti di Trump hanno scatenato una campagna diffamatoria e persecutoria. È comunque sintomatico che nell'ONU 3 dei 5 paesi membri del Consiglio di sicurezza, e cioè USA, cioè Stati Uniti, Cina e Russia, non abbiano aderito alla giurisdizione della Corte Penale Internazionale, e meno che mai, ovviamente, lo ha fatto Israele. Siria. Le vittime siriane dei raid aerei israeliani non interessano a nessuno. Questo lo dice un articolo indignato di Gideon Levy su Haaretz del 9 settembre. Secondo i media occidentali, solo se vi sono vittime israeliane è il caso di parlarne con nomi, cognomi e tutto quanto. Ma se queste vittime sono siriane, palestinesi o arabe, non meritano che essere citati per numero. Levi indignato sulla inumanità dell'Occidente e sulla disumanizzazione in atto degli arabi. Stati Uniti. Orientamento del voto ebraico nelle imminenti elezioni americane. Si tratta di dati riportati da un sondaggio dell'Istituto elettorale ebraico americano, e i dati li riporta il Times of Israel, che equivale al Corriere della Sera nostro, diciamo. il 15 settembre. Va tenuto conto che gli ebrei negli Stati Uniti sono 7 milioni, cioè 1 milione più che in Israele. Secondo questo sondaggio, Biden supera Trump per 67 a 30 tra i votanti ebrei. Cioè la ricerca indica un guadagno in voti per Trump dopo le elezioni che vinse nel 2016, quando Hillary Clinton ricevette il 71% e Trump il 24%. Cioè Trump sarebbe salito dal 24 al 30% di gradimenti. Tuttavia, da questo sondaggio, il sostegno a Trump risulta sostanzialmente tiepido, anche tra coloro ebrei, sempre, che lo sostengono. Dagli intervistati, cioè tra gli intervistati, l'88% si è dichiarato pro-Israele. Non vorrei che passasse inosservato quel 12% che ha invece il coraggio di dichiararsi non pro-Israele. E stiamo parlando di ebrei. Facebook non censuri i palestinesi. Lo denuncia BDS Italia. Facebook, come altri, ha un comitato di sorveglianza che ha il compito di decidere sui contenuti ammessi e vietati. In questo comitato di sorveglianza è stato inserito tal Amy Palmore. Questo tale è stato già funzionario del governo israeliano ed è noto per le sue azioni contro la libertà di espressione dei palestinesi. Cioè, questo vuol dire che la campagna di soffocamento della voce dei palestinesi sta investendo anche Facebook. Ultimo argomento, Libano. Non ne parliamo, ma ci teniamo a segnalarlo. Si tratta di un articolo sul Libano che consideriamo chiaro e conciso, in cui si riepilogano le vicende politiche ed economiche libanesi e l'incidenza su entrambe della presenza palestinese. È un articolo che ha come titolo L'estinzione del Libano ed è stato pubblicato il 26 settembre sul sito di Cultura e Libertà. Con questo concludo e passo la linea alla regia, così come si dice. Chiudiamo questa trasmissione annunciandovi la consueta rassegna musicale. Ascolterete Marcel Khalifa, Io sono Yusuf, Ana Yusuf, storia del profeta Giuseppe raccontata con le parole del poeta della Palestina, Mahmoud Darwish, e cantata dall'artista e musicista Marcel Khalifa. A seguire, sempre di Marcel Khalifa, Comando il tuo nome. In ultimo, Salif Keita Mbemba. Salif Keita è un cantante maliano. È stato nominato Golden Voice dell'Africa, ma è noto perché è affetto da albinismo e per essere un discendente diretto del fondatore dell'Impero del Mali. Secondo il sistema catastale maliano, Salif Keita non avrebbe potuto diventare un cantante. A causa del suo albinismo, venne emarginato dalla sua famiglia e dalla sua comunità, poiché l'albinismo è un segno di sfortuna nella cultura bandinca. E con questo vi salutiamo e vi diamo appuntamento per mercoledì prossimo alla stessa ora. Inshallah! أنا يوسف يا أبي أنا يوسف يا أبي يا أبي إخوتي لا يحبونني عندما مر النسيم ولا عبا شعري غار لا يريدونني بينهم يا أبي أنا يوسف يا أبي يوسف يا أبي أنا يوسف يا أبي يا أبي إخوتي لا يحبونني إخوتي لا لا يريدونني بينهم يا أبي، يعتدون علي ويرمونني بالحصى والكلام، يعتدون علي ويرمونني بالحصى، يريدونني أن أموت لكي يمدحوني، يريدونني أن أموت لكي يمدحوني، وهم أوصدوا باب بيتك دوني، وهم طردوني من الحق، وهم طردوني من الحق، هم سمموا عنبي، وهم سمموا عنبي يا أبي، وهم حطموا لعبي يا أبي. حين مر النسيم ولعب شعري غاروا وثاروا علي وثاروا عليك، فماذا صنعت لهم يا أبي؟ الفراشات حطت على كتفي ومالت علي السنابل، والطير نامت على راحتي، فماذا فعلت أنا يا أبي؟ ولماذا أنا؟ فماذا صنعت أنا يا أبي يا أبي؟ ولماذا أنا؟ فماذا صنعت أنا يا أبي يا أبي؟ أنت سميتني يوسفا وهم أوقعوني في الجب واتهموا الذئب، والذئب أرحم من إخوتي. أنت سميتني يوسفا يا أبي يا أبي، والذئب أرحم من إخوتي. أنت سميتني يوسفا وهم أوقعوني في الجب واتهموا الذئب، والذئب أرحم من إخوتي. والذئب أرحم من إخوتي. أبتي، هل جنيت على أحد عندما قلت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين؟ والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. رأيتهم لي ساجدين. رأيتهم لي ساجدين. أنا يوسف يا أبي، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يمر دمشقي بأندلسي يمر باسمك إذ أخلو إلى نفسي كما يمر دمشقي بأندلسي هنا أضاء لك الليمون ملح دم وههنا وقعت ريح عن الفرس هنا أضاء لك الليمون ملح دم وههنا وقعت ريح عن الفرس تمر دمشقي بأندلسي أمر باسمك إذ أخلو إلى نفسي كما يمر دمشقي بأندلسي kakuruni bembale kasoke kuruti bembari jonke kuruta yadi jeli de nunuma kuke togo songo ha bemba Sikila akono mai akono barabeji aben hakili jigi jonna aben miya jigi surukula suruku wara kele yorodo suruku bena mangala ni kele ni suruku bino kanko kankari suruku ma bale ma mosoluso suruku ma bale ma keluso hakili majiga olode nununa Surukuma furu moso somo Sengo biran fanda Ambem batese Ambem batese nebe ma bara mo ko jondo nebe ma bara mo ko jondo sa sangara nani akone dala kombo kamani dala jiba mi konde ni kore mo zade te kere mi nobi o kele kere fele bolodi nebe ma bara worutu Memale, memale, oh, oh, memba Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, memba Memba, bora mogo jono Nebe ma bora mogo jono Nebe ma bora mogo joni kosa Kita kuru jata, iya ni jata eh. Mari jata suwana molo kona musu de la nisanji. Soko soko si mani si masala baje kumuru kabala simu. Friki ni koma, joma nu ni joma maya. Fuya tugu fula kete tugu kela, aha nebe mabora buru daga jala. Bala bala ro, kini sola la tolo bala manka. Kora bala ro, kaja mala tolo kora manka. Ah kora bala ro, kini sola la tolo kora manka. Sina la le jaliba, sirima fi la le jaliba, jege moriba la le jaliba, hu jalima ka, jaliba maka, soko soko si mani si mosalaba, nankubalu kabala simbo, jala la le jaliba. Me pasa yo, me pasa yo.